Avventurieri, lo strumento che avete ricevuto è delicato e preciso. È progettato per interpretare la voce dei venti. Tuttavia, solo le frequenze comprese tra 100 Hz e 500 Hz corrispondono a segnali autentici. Tutto ciò che è al di fuori di questo intervallo è soltanto rumore o interferenza. Sul display compare un codice incompleto. Se frequenze maggiori o uguali a X e frequenze minori o uguali a Y, voci venti è uguale a interpretate. Altrimenti, voci venti è uguale a confuse. Per far funzionare il macchinario, dovete stabilire i valori corretti di X e Y.